tu sappia quando sei speciale. Non te lo so dimostrare, questo ti fa male, ma te lo voglio rimarcare, io ti amo Vale. Dalla prima volta che t'ho vista, nel cuore un pugnale. Perché sei da perdere la testa, surreale. Sei la quiete, la tempesta, un temporale di emozioni. Ogni azione non è mai banale, resta come sei, una donna eccezionale. Avevo dimenticato quando fosse bello amare. Sei energia vitale, il mio capitale, e ci sarò per te, sei il motivo principale. Come mai per nessun'altra, il peccato originale. Lasciate andare, amare sei fenomenale. Lasciami scrivere la storia, il giusto finale. Per questa volta il treno è stato puntuale, e questa volta l'amore parlerà plurale. Ti regalo me stesso e lo sai, che sei l'universo per i miei guai. Sei speciale, lo sarai per la vita, non lasciarmi mai. Regalo me stesso e lo sai, che sei l'universo per i miei guai. Sei speciale e lo sarai per la vita, non lasciarmi mai. Chi mi ama ha lasciato il paradiso per l'inverno, ma quale per la vita, io ti amerò in eterno. Se guardo il mondo dai tuoi occhi, tutto è più colorato. Ci vedo la luce, tutto è più illuminato. Ci sono arcobaleni su questo percorso, all'improvviso l'amore ci è piovuto addosso. E trovo la forza ogni giorno in quel sorriso, che ogni mattina esplode sul tuo viso. Se scavo nei ricordi ci sei solo tu, di sicuro lo sei anche in qualche mio tattoo. E nel futuro vedo il cielo sempre più blu. Tu ci sei sempre stata ed ora non mi scappi più. Perché sei il mio mondo dove c'è sempre il sole. Sei tutto quello che ogni giorno un uomo vuole. E quando tramonta si inizia a sognare, una nuova alba ci porterà ancora ad amare. Ti regalo me stesso e lo sai, che sei l'universo per i miei guai. Sei speciale e lo sarai per la vita, non lasciarmi mai. Regalo me stesso e lo sai, che sei l'universo per i miei guai. Sei speciale e lo sarai per la vita, non lasciarmi mai. Troppo con te scorre troppo veloce, in un sentimento forte a cui non do voce. Se rimani un terno all'otto, un testo croce, il mio amore di certo non è sottovoce. Sai che la felicità ti dona, farei di tutto per te, per la mia donna. E in più ti dico che l'amore ci fa bene, vivere d'amore per pompare sangue nelle vene. E aspettando l'ora d'aria arrivo Valeria, una boccata d'ossigeno, la mia storia più seria. Ora vedo il traguardo, mi volto e torno indietro, solo per la rincorsa, faccio un salto, io ci credo. E scriverò una storia che ti faccia sognare. Io credo ancora nell'amore che fa stare male, e non racconterò una storia a lieto fine. Io con te vivrò una storia che non abbia mai una fine. Oh. Ti regalo me